sistemiamo gli ultimi aspetti tecnici, vi saluto e vi ringrazio di essere così numerosi. Annuncio anche due iniziative che si svolgeranno la prossima settimana. Allora, una l'11 novembre, sempre in questa sala, sarà presentato un libro di Haiku, una raccolta di poesie dal titolo Frutto, e sarà con lui Lilia Yaneva Satta, ci sarà anche un accompagnamento musicale e verrà introdotto e moderato l'incontro anche da un sociologo che conosciamo, ha già partecipato a numerose iniziative della biblioteca, e Adel Jabbar. Questo appunto lunedì prossimo alle ore 18 in questa sala, mentre lunedì successivo, lunedì 18 novembre, sempre alle 18, verrà presentato lo studio che ha fatto una signora con un master all'università e una convenzione con la biblioteca dell'Università di Reggio Emilia e Modena, e presenterà, proprio perché quest'anno è l'anno appunto del centenario dell'annessione, presenterà appunto un lavoro che si intitola 1919-1939, Poetzenwiek diventa Bolzano, quindi sempre un incontro di carattere storico. Si tratta di una ricerca per un master universitario, sarà con noi Caterina Fantoni, che ha lavorato anche sul materiale della nostra biblioteca. Ecco, quindi queste sono le prossime due occasioni, anzi tre, che di incontro che organizziamo come biblioteca. E invece entriamo nel vivo con la nostra serata, insieme all'ospite d'onore Ettore Frangipane, che saluto e ringrazio. Ringrazio dell'onore. Ebbene sì, siamo arrivati bene al numero 11, correva l'anno 2009, se non sbaglio. Correva l'anno. Quando era iniziata l'avventura di Bolzano scomparsa, e penso non saremmo arrivati, non si pensava ancora di arrivare così in là nelle edizioni, vero? Posso dire una cosa? No, tieni tu il microfono. Sì. Da questa sera Valeria ed io ci diamo del tu. È ufficiale. Molto lunga, ci avevamo messo 10 anni e oggi allo scadere. Però è consapevole. Consapevole, ci abbiamo pensato bene. Dico che questo numero, al numero 11 non ci sarei mai dovuto arrivare. Sono uscito col numero 1 con la Praxis, editrice Praxis, nel 2009, poi l'anno successivo il numero 2, poi le ho proposto il numero 3 e l'editrice, mia cara amica, mi ha detto: no, guarda, i tuoi libri non riesco a venderli, per cui non ti faccio più niente. Allora mi sono rivolto a Curco Genovese di Trento e così sono usciti il numero 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non so, ristampe del numero 1, del numero 2, del numero 3, del numero 5. Datemi una mano e arriverò anche al 13. Mi svelo un segreto, spero che lo registri, ma il numero 4 è un pezzo da collezione. Il numero 4 è pazzesco, non anche so perché non riusciamo più a trovarlo. Esatto. Ma diciamo che l'editore ha il braccio molto corto e prima di buttarsi nella nuova impresa di stampare un'altra edizione ci pensa. Come noi due, insomma. Come noi due, 10 anni. Bene, allora vi lascio subito in compagnia del dottor Frangipane e vi ringrazio e vi invito sempre a tornare anche in biblioteca. Siamo qui al piano terra e organizziamo ogni settimana degli incontri che possono magari anche interessare tutti voi. Grazie. Non sono solo, c'è anche la mia correttrice di bozze. Sì, grazie. Venuta appositamente da Trento. Ci siamo conosciuti adesso, questa sera. Esatto. Ma telefonicamente. Prego. Posso andare, come si va avanti adesso col timer? Posso calcolare? No, manualmente con le freccette. È questo. Ho capito. E indietro. Ho capito. E questo per andare indietro, allora, no? Questo per andare indietro. Andiamo indietro? Ecco qua che siamo andati indietro. Dunque la copertina è stata una novità anche per me, perché pensate che ho visto il libro questa mattina alle ore 11 e qualche cosa, è mandato appuntamento il mio editore in via Giuseppe Di Vittorio, presso il numero 4, presso un ufficio di database, una roba del genere che non avevo mai visto. Ho piazzato la macchina davanti, mi sono guardato attorno, non trovavo nessuno, non vedevo nessuno, non trovavo il numero 4, perché io cerco il numero 4 civico, il numero 4 normale, quello che abbiamo tutti sulla porta di casa, no? Alla zona industriale invece prevale la fantasia degli architetti, per cui il numero 4 era grande così e non l'ho visto naturalmente, perché mi aspettavo un numero piccolo, no? Sotto la pioggia ho trovato un tale, mi scusi, fa, sto cercando, ho detto la ragione sociale di questa società, che si trova qui al numero 4. Ecco, lo so, me l'ha detto, no, quello è il numero 4. Dove? Là! Ah, scusi, era un meridionale, io mi sono detto, questo non lo sa di sicuro, ma ha indirizzato lui, io sono settentrionale ma un po' tardo, come si vede, no? Ecco, quindi sono arrivato lì, mi sono prese le mie 5 copie che l'editore mi ha riservato, tutto il resto devo pagarmelo, siamo fatti così. Ed eccomi qua, finalmente ho visto come si presenta questo libro, che non si presenta male, vero? Ditemi di no, che si presenta volevo sentire la voce indignata di dire, ma no, si presenta benissimo. Dunque, che cosa vediamo qua? Vediamo anzitutto l'imperatrice Elisabetta d'Austria, che ho definito nel libro un po' maniaca, ecco, aveva delle fisse, poverina, è stata una donna infelice, è stata veramente imperatrice ma infelice, che fa anche rima tra parentesi, no? È morta pugnalata da un italiano sulle sponde del lago di Ginevra. È venuta qualche volta qui in Alto Adige, c'è una strada dedicata a lei, un sentiero che vi consiglio di percorrere, una volta era più bello di adesso, su al lago di Carezzo, perché una volta passava nel bosco, adesso il bosco non c'è più. C'è questo vento maledetto che ci ha devastato la nostra regione l'ottobre dello scorso anno, sono 100 anni praticamente adesso, un poco più, e quella via c'è, ma non ha più la suggestione che aveva prima. Questa base che voi vedete qua l'avete riconosciuta subito, penso io, no? L'avete riconosciuta subito? Non l'avete riconosciuta subito. È pure evidentissimo, questo è un passaggio a livello. Dov'è questo passaggio a livello? Viale Trento. Viale Trento, ecco che. Lo sapevate voi, l'avevate detto da qualche parte. Qui siamo a Ponte Loreto. Prima dell'ultima guerra, della guerra mondiale, quando, vedete questo è un po' di spalletta del ponte qua sulla destra, quando di qua passava la ferrovia Bolzano-Merano, aperta anche al traffico per la ferrovia di Caldaro. Poi il treno, i binari sono stati spostati sull'altra riva dell'Isarco, in questa seconda metà del Novecento, e queste lunghe code non le si sono più viste. Questo è un vigile urbano. Ma pensate un pochettino, che i vigili negli anni 30 si vestivano così, guardate un po', austero, nero, e col tavolo, Puccini. Andiamo avanti adesso, vediamo di raccogliere le idee, le forze e proviamo sul primo. Ecco che già lo sono riuscito a individuare, è questo. Ah, ecco, ho fatto un po' di questo signore è qua in sala in questo momento e mi ha fatto piacere rivederlo. È un parroco rumeno ortodosso che ho intervistato. Dunque dovete sapere una cosa, che la comunità rumena qui a Bolzano è piuttosto consistente. I primi mi pare siano gli albanesi, i rumeni a ridosso praticamente, no? E c'è una comunità rumena che tutte le domeniche alle 10 fino a poco tempo fa, officia i propri riti nella chiesa dei Cappuccini. Qua siamo nella chiesa dei Cappuccini, questo è un pezzo della pala del, come si chiama, del Brusa Sorci. Ma pensate, è un pittore di un certo rilievo che ha lasciato questo suo grande spada d'altare, e qui davanti i rumeni tirano questi mobili, vedete che si spostano su rotelle e che chiudono, come usano gli ortodossi, con una iconostasi, la parte absidale dietro la quale si svolgono e si celebrano i momenti di maggiore rilievo del rito. Ecco padre Lucien che è là. Siedo anch'io a questo punto, perché ho visto che la posizione seduta è quella più comoda. Tanto voi non avete da vedere me, guardate un po' quelle belle immagini. Questa è una foto fatta da me, perciò è bella. Andiamo ecco. Attraverso padre Lucien ho conosciuto una cosa che non sapevo e che neanche noi forse sapevate. Queste sono le lapide che si trovano, la lapide mortuaria che si trova alla chiesa dei Francescani. Se voi vedete la chiesa, il frontale della chiesa, sulla destra c'è una Madonna di Lourdes, la ricostruzione di una che poi tra l'altro è stata acquistata a Parigi e portata a Bolzano sul finire dell'Ottocento da due sorelle, da due zitelle che hanno voluto portare a Bolzano questa testimonianza relativa alla Madonna. Lì sulla destra vedete c'è questa pietra tombale in pessime condizioni, non si riesce a leggere più niente. Qua vedete in due corna, sono corna da cavaliere di torneo medievale, e sono relative alla tomba di un personaggio molto importante rumeno che il primo luglio di ogni anno viene omaggiato dalla comunità rumena, che vede in lui e sa in lui l'erede di una schiatta, di una famiglia di estrema importanza nella lotta contro l'invasione musulmana. L'invasione musulmana fu fermata due volte nella sua aggressione all'Europa, la prima volta a Poitiers ai tempi di, sapete, di Paladini eccetera, no? Orlando, il mito di Orlando, l'Orlando furioso, la seconda volta dall'altra parte, alle porte di Vienna, che si affidò alle armi di Eugenio di Savoia che fermò per l'appunto l'avanzata degli islamici. Prima c'è stato tutto un episodio di salita degli islamici, di musulmani verso Vienna e quindi il cuore dell'Europa, che si è manifestata in vari modi ed è stata tra l'altro avversata da chi? Da Dracula. Questo è Vlad III. Un voivoda della Valacchia che combatté crudelmente i musulmani, che dall'altra parte non si facevano in quattro per eccedere in benevolenza, e fu detto è Vlad III della famiglia dei Dracula, dalla quale nacque poi, da questo personaggio, nacque poi nella fantasia di una scrittrice la figura del vampiro Dracula, che era, come sapete, rumeno. Ecco, perché io ho proposto queste cose relative a Bolzano? Perché se trovo i tasti giusti è una bella cosa, eccoli qua. perché un pronipote di Dracula fu questo signore che si chiamava Pietro il Zoppo. Lo zoppo. Lo zoppo. Ho sentito una voce ed era infallibilmente quella di mia moglie, professoressa di italiano, e ha ridacchiato la correttrice di Bosse, che è una professoressa di italiano. Ci sono messe d'accordo per farmi fare brutta figura. Comunque, Pietro il Zoppo, io insisto, non so perché, l'altro, venne a Bolzano perché ci dovette ritirarci. Tutta una storia di Sigismondo d'Asburgo, Rodolfo d'Asburgo, e siamo attorno al 1500 e giù di là. Diede le dimissioni, si chiamava il Zoppo perché soffriva di podagra e zoppicava, no? Venne a Bolzano e trovò alloggio qui e là, alla fine trovò alloggio a Castelnuovale, sapete l'imbocco della Val Sarentino, e la valle Schloss Ried lo chiamano i tedeschi, no? E gli morì. Fu sepolto nella chiesa dei Francescani, e questo che avete visto prima è per l'appunto la pietra tombale. E questa è la storia. Ecco, e questo è un altro particolare, questo è interessante, questo è Vlad III, detto l'impalatore, era il difensore, soprannominato Dracula, no? Era il difensore in prima persona della cristianità contro l'avanzata dei musulmani. All'epoca i delinquenti, i nemici, i prigionieri, li si giustiziavano così, impalandoli. E io ho descritto un po' un caso del genere. Se avete letto Il Ponte sulla Drina di Vlad, come si chiamava? Ivo Andrić, è vero, Ivo Andrić. C'è la descrizione di un'operazione di impalatura, una cosa crudelissima. Andiamo avanti. Ivo Andrić, vedete col passare degli anni come si rafforza la mia memoria. Questo l'avevo visto, questo l'avevo visto, questo pertanto l'impalatore, Vlad III, e questo non è l'impalatore, anche se l'espressione è tale, questo è Giovanni d'Asburgo-Lorena, che ha dato nome ad una piazza di Bolzano e le cui spoglie si trovano adesso a Merano. E parlava italiano, essendo figlio del Granduca di Toscana, lui è nato a Palazzo Pitti, tra l'altro, è stato registrato con tutti una lunga sequela di nomi in italiano, e lui per l'appunto è passato a miglior vita come migliore o peggior vita, ci tratta di vedere, mettiamoci d'accordo col Padre Eterno. E qua riposa sopra scena. Il fatto importante, quella signora a destra in basso di agile aspetto è mia moglie, via. E questa è la tomba di Giovanni, che per noi è Giovanni, però per i suoi tirolesi è giustamente Johann von Habsburg, no? Ecco. E che ha un particolare però da sottolineare, anzi due. Il primo è che ha dato nome alla piazza principale di Bolzano, a piazza Walter, che dopo essersi chiamata Maximilianplatz ai tempi del dominio bavarese, che è seguito all'invasione, diciamo così, dei napoleonici, che diedero nome, lo voglio ricordare ancora una volta, di Dipartimento dell'Alto Adige a questa zona, di così che nacque il termine Alto Adige. E dopo Maximilianplatz Piazza Walter divenne Johannsplatz, poi Walterplatz quando apparve la statua di Walter von der Vogelweide, poi allontanata la statua perché troppo tedesco il personaggio dal fascismo, e la piazza fu intitolata Vittorio Emanuele III, poi caduto Vittorio Emanuele III, cambiarono nuovamente il nome alla piazza, e voi non vi ricordate come si chiamava, ve lo dico io, si chiamava Piazza Madonna, perché la chiesa, il Duomo, era dedicato alla Madonna, a Santa Maria Assunta. Dopodiché Walter von der Vogelweide riacquistò i suoi diritti, diede una gomitata alla Madonna, la mise a parte e tornò lui, e adesso ce lo teniamo, e per fortuna, e speriamo che le cose continuino così. Ecco, andiamo. Ah, voglio dirvi un'altra cosa, Giovanni, quello che avete visto prima, erede del trono della Toscana, del Granducato di Toscana, fece una cosa che fecero altri Asburgo, anche prima di lui, che non piacque al Kaiser, sposò una non troppo nobile. Mentre Heinrich von Habsburg aveva sposato una borghese, una cantante, ed è quello che con la moglie Leopoldine Hoffmann è sepolto nel Duomo di Bolzano sotto la cripta, lui sposò anche lui una, ah no, non era una cantante, lui sposò una certa, ho scritto il suo nome ma non mi ricordo più dove ho messo i miei appunti, poi me li vado a trovare, ecco, la figlia di un mastro di posta, una cosa vergognosa, Francesco Giuseppe si arrabbiò moltissimo e lo cacciarono, praticamente lo diseredò come già aveva fatto con Ranieri prima, e quando morirono furono separati nel rito funebre, ma si ricomposero, si ritrovarono poi a Merano. Nel frattempo però era stato attribuito alla signora, alla consorte, alla figlia del maestro di posta, un titolo inventato lì per lì, quello di Contessa di Merano, e nacquero pertanto i Conti di Merano, che non hanno origine nobiliare, ma un'origine direi opportunista. E questa è la statua della Val d'Igra, della quale parleremo pochissimo. Quello sulla sinistra vedete è Castel Cornedo, vedete la salita della Val d'Igra con una friulana che porta nella gerla, ne ho visti a suo tempo io, attorno agli anni 40, che porta nella sua gerla, si è tirata sulle gonne, vedete, per essere più agile nel movimento, ha riempito la gerla di oggetti che passava di maso in maso a vendere. Era una fatica, veramente, torniamo a Maria l'Ausiliatrice di prima, una fatica della Madonna, e giravano le montagne dell'Alto Adige, queste friulane con le loro gerle carichissime di rocchetti, cucchiai di legno, filo di questo, aghi e fili di quest'altro, tutte quelle cose, quelle piccole cose che servivano alle donne nei vari masi, che non facevano fatica ad acquistare, non c'era tutta la possibilità di movimento che c'è oggi. Ecco come si presentava la statale della Val d'Igra, no? Questo è attorno al 1850, l'ingegner Schweighofer costruì le strade statali di Sarentino, della Val d'Igra e della Val Gardena, e sulla traccia di questa strada poi fu ideata e poi costruita, l'idea fu di Theodor Cristo Mannos, esattamente, un austriaco di origine greca, che era il padre di Cleo de Merode, che era una prostituta d'altissimo rango che esercitava a Parigi. Era il tempo di Cleo de Merode, ce n'erano delle altre, insomma, l'ultima fu credo Matari, insomma. Volevo un altro nome famoso che non mi ricordo più. E fu costruita la strada della Valdega. Ma perché cito la strada della Valdega? Perché con la storia delle gallerie abbiamo perso una grande occasione, quella di trasformare la strada della Valdega in una attrattiva turistica. Guardate, questo è al tempo di Gasburgo come si presentava la strada. La strada è quassù, la strada della Valdega. Qui vedete dei carri che salgono questa strada, e sono carri di turisti che trainati da cavalli, logicamente, che poi scendevano lungo questa scalinata per ammirare l'orrido che si trova qua. È un bello spettacolo. Oggi tutte queste cose non le si vedono più, per il semplice motivo che c'è comoda, bella, logica, quello che volete, la galleria, le gallerie che hanno tolto poesia alla vallata. Comunque, sarebbe da riattivare questo itinerario. Questo è un mio antenato, in un certo senso, è il primo radiocronista di Bolzano, anno 1929. Questo è Franco Cremascoli, in piazza Walter, ma non si chiamava Piazza Walter, all'epoca era Piazza Vittorio Emanuele III, ecco, non inducetemi in inganno. E queste erano le carrozzelle che c'erano allora. Ecco, e Franco Cremascoli venne a Bolzano e fu uno dei primi tre radiocronisti dell'EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, insieme a chi? A Nicolò Carosio, Calcio, l'unico sportivo, e assieme a un certo Veltroni, che era poi il padre di Walter Veltroni. Ecco. E nel 1928 questo bel personaggio, che ha gli occhiali come me, ma io non ho i baffi come lui, questo personaggio fece la radiocronaca, primo avvenimento del genere in Italia, della inaugurazione del monumento alla Vittoria, effettuato appunto nel 1928 da Vittorio Emanuele III. Andiamo avanti. Sapete cos'è questo? Questo sapete che cos'è, naturalmente. Questo è il museo. Questa è la cassa di risparmio, come era allora, in uno stile eclettico, lo si diceva, uno stile tedesco, un eclettismo perché assommava in sé elementi di rinascimento, di classico, di barocco e anche di gotico. Vedete tutto questo spinto in alto, sono gotiche. Ecco, la cassa di risparmio si presentava così, troppo tedesca. E allora ci penso bene di italianizzarla, ricorrendo allo stile razionalista che è stato applicato in tante parti di Bolzano. Ecco. Questa staccionata delimita cosa? Delimita il pattinaggio di Bolzano, che si trovava in via, si chiamava allora Regina Elena, negli anni 20, 30 e primi 40, e qui costruirono una casa popolare che c'è tuttora e nella quale mio nonno Max Kirsten, germanico, acquistò un appartamento per mia madre, Carlotte, come te si chiamava, con 3.000 marchi d'oro, in quanto dote che lei avrebbe portato a suo fidanzato e poi marito. Io sono nato qua. al terzo piano. Non mi si vede ancora volare, ma apparirò là. E questo, è, tornando a parlare del pattinaggio, è un altro importante campo di pattinaggio, i piani di Bolzano. Ecco, e qui ha giocato anche nei primi del secolo scorso, ma anche più avanti, poi negli anni 20, l'Hockey Club Bolzano, che è nato in funzione di questa superficie ghiacciata, era l'acqua di Lisarco. Andiamo ancora avanti. Oh, questa qui è divertente come fotografia, perché qui, come vedete, c'è una cupola e non, sapete indovinare qual è la chiesa? No, lo diciamo dopo. Questa siamo in pieno periodo, diciamo 1890, una cosa del genere, 1890-91. Qui siamo in Piazza Walter, questi sono i cavalli con le loro carrozze, questo è il tram. Una sola linea, perché l'altra linea era ancora da fare e sarebbe andata lungo questo itinerario per muoversi verso San Giacomo e poi durante il fascismo collegarsi alla Eves. Ecco, questo è il tram come era inizialmente. Questa è la zona, il retro naturalmente di Palazzo Campo Formio, che si chiama così per no Campo Franco. Confondo sempre mia moglie stavolta non ha detto no, ma ah, è stato tu a leggermi ora mi va tanto per sembrare. E questa è la cupola che dominava questa zona dall'alto del palazzo delle poste telegrafi. Il palazzo delle poste telegrafi all'epoca di Francesco Giuseppe, del primo Francesco Giuseppe, si trovava, non era un palazzo, era una casetta, in via Bottai. In via dei Bottai, ed era troppo piccola naturalmente, insalubre come tutte le zone, come tutte le abitazioni della zona vecchia, e allora costruirono questo bellissimo palazzo che per l'epoca era veramente qualcosa di avveniristico, che poi a un certo punto si rivelò insufficiente e allora fu alzato di un piano. E questa bella cupola di vetro, qua sembra di colore verde ma in effetti era di vetro, questa cartolina è stata dipinta a mano naturalmente, non esisteva la fotografia a mano all'epoca, e questa è stata costruita questa divertente, direi, è cupola. Ecco, a proposito di novità, che ci spostiamo adesso in Piazza Domenicani. Questa è Piazza Domenicani come era fino agli anni 20. Qua vedete la chiesa di San Domenico, qua c'è l'attuale conservatorio che è stato ai tempi del giuseppinismo sotto l'imperatore Giuseppe II, figlio di Maria Teresa, è stato secolarizzato. Lui era un illuminista, poco devoto, poco rivolto alle cose della Chiesa. E la Chiesa fu secolarizzata, fu trasformata, fu data all'esercito che ne fece un magazzino, una panetteria per l'esercito. Il magazzino servì tra l'altro allo scopo di accumulare cose appoggiandole al muro. Ogni volta che si... due o tre volte almeno nel corso dei decenni, nell'allontanare queste cose che si erano ammassate, si scopriva sotto, sulle pareti, dei bellissimi affreschi. Allora venivano, meravigliavano, oh questo è Giotto, questo non è Giotto, insomma, più volte ho letto sui giornali del 1800 scoperti nuovi affreschi nella chiesa dei Domenicani, erano sempre i vecchi affreschi che venivano di volta in volta riscoperti. Qua si faceva anche il pane per i militari Kaiserjäger che abitavano allora in quello che era, erano accasermati, allora in quello che era la caserma, che era stato un convento dei domenicani, era diventata una caserma e poi un un istituto musicale e quindi il conservatorio musicale. Qua questa era Spitalgasse, la vera Spitalgasse era questa, non era Piazza Domenicani che si trovava qua sotto. Questa Spitalgasse fu demolita, rimodulata dal fascismo, che abbatté queste baracche e costruì questo edificio con gli altri e ne fece Piazza Domenicani. Questo è l'ospedale che è stato costruito in epoca asburgica nel 1859. E dove morì tra l'altro Raffaele Sernesi, il noto pittore impressionista fiorentino, che combatteva con Garibaldi nella seconda guerra d'indipendenza, anzi no, nella terza, arrivò fino a Bezzecca, vi ricordate il famoso episodio dell'obelisco, e Sernesi fu ferito, lo ricoverarono qui, gli fecero presente che per salvargli la vita dovevano tagliargli una gamba, e lui non volle e morì di cancrena qua. Pertanto la strada qui fu intitolata a Raffaello Sernesi, come anche la piazza che si trovava qua e che adesso invece è dedicata all'università. Oh, questa è anche bellina, però a questo punto devo proprio, mi allunga per favore la mia borsa, perché c'ho dentro degli appunti senza i quali, grazie Valeria, ci diamo del tuo, da oggi tutta una scusa per poterci dare del tuo. Allora, che cos'è quello? Quello è il caffè Cusset, che è un classico caffè d'epoca asburgica, che ricorda però, ha una sua storia, perché questo caffè Cusset deriva dal francese Cusset. Dovete sapere che ai tempi della rivoluzione francese, naturalmente, i nobili, molta gente fuggì dalla Francia e se ne andò in giro per l'Europa. E un noto pittore, Cusset, lasciò la Francia perché in disaccordo con i rivoluzionari e andò a Roma, dove incominciò a lavorare per la Chiesa. La Chiesa è un buon datore di lavoro, anche se lesina un po', perché è portata a concedere più indulgenze e benedizioni che denaro, però nel caso specifico questo Cusset fece la sua fortuna, entrò in lite con un cardinale, se ne andò allora e venne tra l'altro a Bolzano, venne infine a Bolzano, dove il suo nome fu cambiato da preferì italianizzarsi e si fece chiamare Anton Cusetti, che tra l'altro ha firmato una bella pala di carattere, di contenuto religioso, che si trova su al Virgolo, nella cappelletta del Calvario. Ecco, questo Cusetti pertanto ha lasciato questo quadro, e dopo Cusetti il nome è stato telescritto in Cusset, e questo è l'albergo Caffè Cusset, che ha una caratteristica sicuramente quella di essere stato, purtroppo è stato stravolto, adesso hanno avuto un'idea originalissima, adesso lì vendono abbigliamento, è una cosa che nel centro Bolzano non vedete da nessuna parte, ecco. Quindi al posto di questo ambiente Biedermeier bello, fatto di vecchi personaggi che leggevano i giornali fumando la pipa, adesso c'è questo Cusetti, questo è un altro personaggio importante che passò per Bolzano. vedete la scritta Cody? Ecco, lui è il colonnello William Cody, detto Buffalo Bill. E questa carampana, posso dare questo termine, lui è un bell'uomo, alto di statura, anche perché ha i tacchetti, come voi noterete, ecco, e lei forse non li ha, e sua moglie. È sua moglie, esattamente. E, sapete, si chiama Buffalo Bill, perché Bill vuol dire contratto, Buffalo Bisonte, perché fece a suo tempo negli Stati Uniti, quando andava a cavallo per le praterie, un contratto con le imprese che costruivano le ferrovie, per il quale il contratto avrebbe garantito carne agli operai e quindi grandi massacri di bisonti, ossia di bufali. Poi fece i soldi così con questo sistema, aprì un circo e si mise anche a girare l'Europa. Qui passa il colonnello William Cody, detto Buffalo Bill, passa per Bolzano col suo circo, ma non si ferma qui. Era sulla strada da Verona a Monaco, che si è fermato soltanto per fare il rifornimento. Bolzano era troppo piccola, viste le dimensioni del circo, perché se ne potesse fare. Questo sono io, no. Quello a destra, ho colto l'occasione per questo momento di gloria, no? Ecco qua, mi trovo con il domatore Walter Nones del circo Orfei. Gli ho fatto un'intervista in diretta per la radio. Sono bello e giovane, ancora ho i capelli, come vedete, scuri, abbastanza scuri, e ascoltano estasiati la mia intervista queste leonesse che si sono comportate bene per l'occasione, anche perché non avevano fame e forse è stata somministrata loro qualche iniezione di calmante. Uno dei problemi dell'Alto Adige, come sapete, voglio guardare l'orologio per non essere troppo lungo, poi a un certo punto ci darò un taglio perché alle 7:05 minuti voglio chiudere, è il bilinguismo, come voi sapete, che è praticato e applicato in Alto Adige non sempre, specialmente per quanto riguarda il turismo. E come vedete qua siamo sul Renon e questo Roden Verboten, che si potrebbe anche tradurre in vietato l'uso della slitta, slittare vietata, una cosa del genere, è rimasto Roden Verboten. Una madre e una figliolina piccola non sapevano il tedesco, sono saliti su una slitta lo scorso anno, sono andati giù per la pista e si sono schiantati nel bosco. Queste sono le cose che possono succedere quando non si applica la legge nel dovuto modo. E questo è un altro caso, è la Freud Promenade. Ho detto prima della Elizabeth Promenade, no? La passeggiata che faceva Elisabetta dal lago di Carezza su, attraverso il bosco, adesso semidistrutto, se non distrutto del tutto dal vento. E questa è la Freud Promenade che va da sopra Bolzano, attraverso, sempre in piano, verso, come si chiama? Verso Collalbo, sì. Ecco, la domanda che ho fatto il mio amico Alberto Pasquale è stata: ma sai perché, cosa vuol dire Freud Promenade? C'è la promenade della gioia? No! Era una promenade seguita da Sigmund Freud, che era un ospite tradizionale del Renon, e quando si muoveva verso Collalbo andava lungo questo sentiero che gli piaceva assai. E questo è un altro motivo per il quale si potrebbe applicare un po' di bilinguismo anche lungo i sentieri di montagna. E questo è il momento di follia, il momento di gioia. Sapete cosa c'è qui a destra? Questo qua siamo in via Leonardo da Vinci, ecco, dove mancano quelle case. Adesso c'è una galleria sulla sinistra, c'era l'Hotel Europa una volta. Qui di fronte a destra c'era, che cosa c'era? C'era il la sede del Partito Nazionale Fascista, sezione di Bolzano. Ecco. E quando Mussolini teneva un discorso di cose importanti, degli altoparlanti radunavano la gente che accorreva per sentire la voce del Duce. Oh, la voce del Duce che diceva naturalmente grandi cose. Io avevo scelto un pezzo di questi discorsi perché sono sempre bellissimi da leggere, soprattutto non per le parole che diceva il Duce, ma per i panegirici che i giornalisti, i miei colleghi dell'epoca, facevano attorno a questi avvenimenti. Ma ve li risparmio perché siamo già troppo lunghi, chiacchiero troppo, e vi voglio invece proporre a qualche piazza bolzanina, ma questa la sapete, questa è piazza Griese, il tram di allora, che qua ci vedete due binari. Qua c'era l'incrocio dei tram, poi proseguiva l'itinerario del tram su binario unico, e quando ci facevano le curve e passavano indifferentemente da destra a sinistra, da sinistra a destra, per cui tutti tenevano la destra, ma non i tram, che tenevano un po' la destra e un po' la sinistra. Bisognava stare attento, soprattutto quando si seguiva una curva. Non c'era passaggio di tram nei giorni del mercato. Perché Piazza Gries, che poi fu detta Piazza Franz Josef, e poi durante il fascismo Piazza Tiberio, Imperatore Tiberio, e questo Gries non era riconosciuto il termine Gries, dava fastidio, era il rione Tiberio. Ecco, il rione Tiberio era fatto di ragazzi, ragazzini che confluivano il sabato fascista al Campo Druso, non al Campo Druso, all'Eura, oggi si chiama Euro, alla GIL, dove andavo anche io come figlio della Lupa prima e Balilla poi per le esercitazioni. C'era la GIL femminile. E perché ci andavo io che ero un maschietto? Perché ero un maschietto piccolo, e allora venivo affidato alle cure delle piccole italiane, o meglio delle giovani italiane. Ecco, vedete quello che si vedeva allora. Naturalmente ho scritto un articolo giorni fa che avrete letto la domenica, il mercato del bestiame anche in quella che oggi è Largo Verdi, migliaia di capi di bestiame. Qua siamo a Piazza Vittorio, è la zona di Piazza Vittorio che sto girando adesso con queste immagini. Vedete il tram di allora, aveva i colori bianco e rossi che sono i colori del Tirolo, no? Quando venne qui, come si suol dire, l'Italia, i tram furono tutti dipinti in verde di due tonalità, perché il verde era all'epoca, nel primo Novecento, il colore dei mezzi pubblici in Italia. Questa è la famosa. Questo è il parco di Gries, perché qua siamo sempre a Gries naturalmente, no? Questa è la porta d'accesso dalla parte del Tarvera al parco di Gries, con dei fantastici glicini che voi vedete qua, bellissimi glicini. Fu abbattuto per costruirvi il monumento ai Kaiserjäger. Che fu abbattuto, ma questo è più bello, la voglio riservare poi, che fu abbattuto a sua volta poi per cedere spazio al monumento alla vittoria. Ecco, e il destino dei monumenti è quello di essere abbattuti, sentendo un po' degli umori della politica, no? Andiamo avanti, questo è nuovamente piazza Vittoria. Notate un po' questi fascisti che sono camicie nere che marciano, vengono su da Viale Venezia, e queste sono le incis che sono anche tuttora, con un costruiti in uno stile negli anni 20, del tutto diverso da quello che vedete oggi. Lo stile è quello del barocchetto romano, che è lo stesso stile nel quale sono state costruite le case popolari, gli alloggi in Cis che si trovano tra via Diaz e via Dante e via Carducci. Avete presente quelli tutto posto con archetti, con timpani, cose varie, no? E questo sembrava troppo poco, troppo lezioso, questo barocchetto romanesco. Allora tutti questi orpelli sono stati eliminati e spianati per farne degli edifici di stile razionalista che concordassero con gli altri che si sarebbero ricostruiti tutto attorno a Piazza Venezia. Posso dire la mia? Io preferivo così. Ah, ma questa mi piace, siamo sempre in Piazza della Vittoria, vedete sulla sinistra, vedete gli edifici di cui ho detto prima, il barocchetto, il barocchetto romano, il monumento alla Vittoria giace, e quindi questa fotografia è posteriore al 1928, anno in cui Vittorio Emanuele III, come ho detto prima, ha inaugurato il monumento alla Vittoria. E qua è un momento che trovo ironico, curioso, è un gruppetto di sudtirolesi in costume tradizionale preceduti dalla bandiera con lo stemma dei Savoia. Fa un po' da ridere, corretto, ma insomma, se volevano girare, poi naturalmente a un certo punto non si poteva più indossare costume perché erano d'obbligo le camicie nere. Qui siamo al Teatro Verdi, nell'anno 1935, quando ne parlo, quando andò in scena uno spettacolo di bambini, molto bello, e nel cerchietto rosso si trova la signora Greti Kofler, allora Margherita Kofler, che ho avuto modo di conoscere, per stata lei che mi ha mandato questa foto, mi ha dato queste informazioni su questa manifestazione, che recitava con grande successo in questa operetta. Guardate quanti bambini, quanti giovani e giovanissimi erano impegnati sul palcoscenico del teatro, ripeto, Teatro Verdi. E qua c'è Margherita Kofler che fu osannata dal critico d'arte Guglielmo Barblan, che è stato uno dei maggiori in Italia in assoluto e che faceva le recensioni musicali molto appropriate, e lo scopritore, tra l'altro, Barblan di Bonporti, del compositore Bonporti. Eccoci qua con questo qui, no, è un'altra. E attraverso la grave età di questa 97enne, come ho detto prima, ho conosciuto altre sue amiche, per cui c'è stato un periodo che mi telefonavano in casa queste vecchiette che poi andavo a trovare con grave sospetto di mia moglie, che ogni tanto, tuttora, si sente arrivare la telefonata della Greti Kofler che deve dirmi questo e quest'altro. È un portale interessante, tra l'altro, non scende in particolari che non mi riguardano, peraltro. Questa è una giovane italiana, vedete qua scritto M, che vuol dire manco a farla apposta Mussolini. Lei si chiama Lucilla Merci e si trova in montagna nella colonia Planchos. Lucilla Merci, che oggi veleggia a sua volta verso i 100 anni o poco meno, è figlia di quel capitano Lucillo Merci, che a cui è stato dedicato un albero, credo, nel Parco degli Eroi a Tel Aviv o a Gerusalemme, perché di incombutta col console di Salonicco durante l'occupazione tedesca della Grecia, riuscì a salvare qualche centinaio di ebrei greci facendoli passare con documenti falsi come cittadini italiani. Per cui questi greci che non sapevano la parola italiana furono salvati, andò perfino Lucillo Merci, il capitano Lucillo Merci, a prelevarli mentre stavano salendo su un treno che sarebbe partito verso la Germania, protestando documenti falsi alla mano che questi quei greci non erano greci ma erano italiani. E le SS non poterono fare niente. Lucillo Merci mi ebbe poi più tardi come ispettore scolastico, mi fece un esame una volta che faceva un, io ero un bambino naturalmente, avevo 9-10 anni, faceva, passava lì, non devo dirle queste cose perché non vantarmi, però disse che ero molto bravo e di riflesso, come dico, questo suo assenso alla mia maestra a Nova Ponente, che era la signorina Pompermeier, che credo sia tuttora viva, dovrebbe avere un centinaio d'anni e vorrei incontrarla. Vediamo che ora è, tra poco 5 minuti chiudo. Qua siamo nuovamente. Lucillo Merci, mia compagna di scuola in quel tempo. Ah, è la tua compagna di scuola. Beh, anche noi eravamo compagni di scuola a Nova Ponente, e frequentavamo la stessa scuola, quindi anche tu sei stata allieva della Pompermeier, lunghi capelli biondi e io innamoratissimo. E qua sono giovani italiani, questa è una fotografia che ho ricevuto, schierate lungo la strada che conduceva al sabato fascista. Adesso andiamo via veloci perché voglio concludere. Questo è Enrico d'Asburgo, a cui ho fatto cenno prima, e questa è sua moglie, la cantante Lise Leopoldine Hoffmann, che fu nobilitata perché troppo borghese, troppo volgare, dal re di Baviera, che ne fece una baronessa, la baronessa Weideck. E questa è la loro figlia, che creò grave scandalo in Francesco Giuseppe, perché la concepirono e nacque in Svizzera, perché se ne dovette andare il buon Enrico, che tra l'altro ha finanziato, avuto l'idea e finanziato in grande parte la passeggiata del Gulcin sopra casa tua. È stato Heinrich von Habsburg, no? Questi due che si volevano un bene dell'anima, cosa che deve aver fatto incazzare, scusatemi il termine, Francesco Giuseppe, che era in perenne lotta con Elisabetta, che sarebbe stata la sua vera moglie, ma lui a sua volta si era beccato di nascosto una cantante, non ufficiale comunque. Andarono nel 1821, un giorno del 1821, a Vienna, non a corte perché non erano messi a corte, andarono a visitare un loro parente, si chiamava Rainer anche lui, come il papà di Enrico, e li morirono l'uno a 17 ore di distanza dall'altro, entrambi di broncopolmonite. Funerale separato per i due, perché uno era nobilissimo e l'altra nobiluccia, non abbastanza secondo quelli che erano i parametri di allora. Questo è Musil, e concludo con questa immagine. Adesso Robert Musil, l'uomo senza qualità, i lamenti del giovane Turles e via dicendo, che dirigeva, pensate un po', la Soldatenzeitung dal 1915 in poi, che si stampava a Bolzano, perché a Bolzano si stampava il giornale per le truppe austriache. Ecco la Soldatenzeitung, Tiroler Soldatenzeitung. Ecco, The Skies Namenstag, riesco a leggere Giannella anche senza occhiali, è potente, sto facendo delle infiltrazioni nell'occhio destro e adesso ci vedo meglio, e se volete delle istruzioni ve le do, e così ve le do. Ecco, è il giorno del Namenstag, dell'onomastico del Kaiser, e il giornale le dedica la prima pagina. Guardate che belle pagine figuravano all'interno di questa giornata dei soldati, sono i nostri eroi, sono personaggi che evidentemente sono deceduti in combattimento e che ebbero l'onore di via via di pagine intere sulla Soldatenzeitung. Guardate questo che ragazzino, è quasi commovente, no? Ha un fucile che è più lungo di lui. Là non ci riescono, le veteranische Beilage, un'aggiunta letteraria della Soldatenzeitung. E questo è il giornale, una fotografia scattata sulle Alpi, suppongo sulle Alpi, sulle nostre Alpi, sulle Alpi Dolomiti. La gigantessa di Ridanna, che era due alti, 2,20 metri, e fu vista da una famiglia tedesca che la ingaggiò per fare il fenomeno da baraccone in giro per l'Europa, l'Austria, poverina. Pensate che era talmente alta che non le consentivano di andare a passeggio per le strade della città di Berlino, per esempio. Perché? Perché si andava in strada e la vedevano, nessuno andava più a vederla al circo. Si rovinava l'affare, insomma, no? Ecco, morì relativamente giovane ancora, ma questa sarebbe bellissima, ma ecco qua, ve lo cito perché lo vedo in sala, Roberto Lughezzani, che era figlio dell'autista del federale e che ha vissuto delle esperienze particolari, è vivo per miracolo, perché abitava all'epoca in quelle palazzine, sapete, dell'Incis di via Cordilana, e una bomba d'aereo, logicamente, si infilò attraverso i piani di quella casa, passò vicina a Roberto, finì in cantina e lì rimase inesploso. Quindi, se volete concludere questa chiacchierata con un applauso al sopravvissuto, al rivivo, fatti vedere, eccolo là. È questo il momento. Io chiudo a questo punto, questa è la strage della Portela, questo me lo voglio ancora far vedere. Ve lo ricordate? Questo era l'atrio del Cinema Corso, con la statua di Eraldo Fozzer, che è scomparsa. Dove è andato a finire? Come? L'ingegner Corsi l'ha presa. Ah, sai chi l'ha presa? Ah, l'ha comperata? Lui era uno dei due imprenditori che avevano preso il Cinema Corso. Sì. Il Cinema Corso in particolare si era innamorato di questa statua e se l'ha presa e si è portato via. Poi non so dove è andata a scrivere. Ero innamorato anch'io di questa statua. Quando facevo quella scalinata la guardavo sempre. Ha parlato l'architetto su Ligi, tra parentesi. Vedi tra architetti cosa combinano questi qua. Non ce l'ho io, Ma non ce l'hai tu. È bellissima, e quella scalinata era una cosa superba. Questo era il palazzo, davanti il corso, nel progetto originario prevedeva due gruppi scultori, questo era com'era e questo è come terminato. Vedetela in fondo, la stanno abbattendo qua, vedetela in fondo quel reticolo, no? Sono i palchi. Il massimo allora consisteva nel prendersi una morosa, portarla lì, pagare congruo non alla morosa, alla cassa. Alla cassa era seduta la moglie di Sfondrini. Era seduta la moglie, e poi qualche bacetto, almeno per me, almeno i tempi miei, e nient'altro. Insomma, ecco. Bene, sentite, concludo a questo punto, però voglio dire una cosa. Io ancora non so dove siamo finiti, i vetrini delle porte quando demolirono. I vetrini delle porte via lui, dice Aligi. Ma ti sbagli, perché io anch'io, a casa mia. Perché il demolitore, per conto dell'Habitat, è stato mio fratello, l'ingegner Domenico Frangipane, e me ne ha portate tu anche. E allora me ne ha regalati due, sapete, di quei veti vetri verticali che riproducono delle fontane che spruzzano acqua a destra e a sinistra, no? Ecco, io ce ne ho due, e lui neanche. Non so dove sono finite, ma li cercherò. Ecco, non sa dove sono finite, perché non si cura delle cose del passato. Però viene qui a seguire queste chiacchierate. Da qualcosa c'è anche sua moglie, Giovanna Dapor, che naturalmente è quella artista che voi conoscete, ma viene qui a conoscere, a cercare di conoscere il passato che io, dall'alto dei miei quasi 85 anni, posso proporvi. A questo punto vorrei dare con il microfono alla signora Mazzini, che mi ha detto che voleva annunciare qualcosa relativamente a Leonardo. Buonasera a tutti. Come penso sappiate, quest'anno ricorre il 500° dalla morte di Leonardo, che viene festeggiato in tutta Italia, in Francia e nel mondo, e Bolzano non poteva fare a meno di organizzare una mostra. Anzi, direi è stato l'ufficio cultura della provincia che ha organizzato una mostra in collaborazione con la Dante Alighieri, con l'Eurac, con la ripartizione 34, università ricerca, e anche naturalmente con l'Università di Bolzano, che mette a disposizione lo spazio espositivo. Quindi il 13 di questo mese alle ore 18 avremo l'inaugurazione della mostra nell'Aula Magna, e anche un mio discorso tra l'altro su Leonardo e la matematica, che diciamo così non viene generalmente affrontato. Si parla di tutte le altre grandiose cose che Leonardo sapeva fare, e poi diciamo così a partire dal giorno 14 tutti i giorni la mostra sarà aperta dalle 10 alle 19 con possibilità di visita guidata, e basta essere un piccolo gruppo sia in lingua italiana che in lingua tedesca. Nell'arco di questo periodo, che si concluderà l'11 di dicembre, sono previsti 4 incontri che si avranno presso le sale dell'Accademia della Sparkasse, che saranno relativi all'innovazione tecnologica attuale che vuol rendere omaggio appunto a Leonardo. Quindi avremo il più grande astrofisico italiano responsabile di tutti i viaggi spaziali dell'ESA, che verrà il 20 di novembre alle ore 18 appunto in queste sale che vi dicevo. Poi avremo il problema dell'acqua, lo sapete che sta diventando sempre meno, è un bene prezioso. Ebbene, si parlerà dell'unicità dell'acqua che noi dobbiamo preservare da parte della dottoressa Bottarin dell'Eurac e da parte di un architetto che si chiama Burzelleri, è una ricercatrice, la responsabile dei corsi d'acqua delle zone che circondano Milano. Poi avremo ancora altri incontri, e precisamente il 3 di dicembre avremo scusate, ho perso conto, il 3 di dicembre è quello dell'acqua. Il 4 di dicembre faremo vedere che anche Bolzano segue l'ecologia e ha delle industrie che rispettano l'ambiente. Quindi avremo la ditta Microtech, rappresentata dall'ingegner giudice Andrea, che è anche, diciamo, il responsabile dell'associazione industriali, che porterà in mostra e sarà presente insieme alle tavole di Leonardo e ai modelli di legno realizzati sulla base delle tavole, e persino un piccolo tomografo mediante il quale si riesce a vedere all'interno di tronchi, di generi alimentari, qual è la struttura senza intaccarla in nessun modo. Ci sarà poi anche una start-up che normalmente è localizzata al Neutech Park, che ha vinto un premio della provincia quest'anno, che produce attraverso le piante quantità considerevoli di proteine nella speranza di risolvere il problema che noi abbiamo oggi, che è quello di utilizzare proteine possibilmente non di origine animale. La conclusione sarà il 10 di novembre, di dicembre, nell'Aula Magna, questa volta ancora dell'Università, e parleremo dei media, dei vari linguaggi, come possono collegarsi alla scienza, all'arte e alla tecnica. Grazie per l'attenzione. Grazie. E qua ci sono dei pieghevoli e ce ne sono anche all'ingresso con tutto il programma scritto bene. Vi aspettiamo alla mostra. Grazie. Grazie professoressa Mazzini, grazie soprattutto al dottor Frangipane, autore, per questa magnifica serata.